Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma scoprono un meccanismo fondamentale nello sviluppo del 70% delle reazioni di rigetto dei trapianti di rene. Ne parliamo a Obiettivo Salute col primo autore dello studio, il professor Giuseppe Grandagliano, ordinario di nefrologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Buongiorno. Il trapianto di rene è la forma di terapia della malattia renale cronica avanzata, l'insufficienza renale, che è migliore che abbiamo a disposizione, della speranza dei nostri pazienti in dialisi o di quelli che stanno per arrivare alla dialisi. La causa principale di fallimento, di perdita dell'organo trapiantato in questo momento è rappresentato da una forma particolare di rigetto che è legato alla produzione di anticorpi da parte del ricevente contro il trapianto. Noi abbiamo studiato questa forma particolare di rigetto e siamo riusciti ad individuare un tipo particolare di anticorpo che viene prodotto dal paziente trapiantato e che si lega all'organo trapiantato e che è in grado di procurare un danno. Questi anticorpi sono le immunoglobuline E, che sono originariamente legate alle reazioni allergiche. Questo tipo di osservazione apre la possibilità, naturalmente, dimostra un nuovo potenziale bersaglio per le terapie e apre la possibilità a terapie nuove per questa forma particolarmente importante di rigetto. Professor Grandagliano, lo scorso anno in Italia sono stati eseguiti 1799 trapianti di rene e al 31 dicembre 2019 la lista d'attesa per il trapianto di rene contava 6573 pazienti, tra l'altro un numero è rimasto costante negli ultimi 3 anni. Questi dati sottolineano la necessità di incentivare la donazione. Noi addetti ai lavori coordinati dal Centro Nazionale Trapianti negli ultimi anni stiamo spingendo moltissimo per aumentare la donazione da vivente, quindi il trapianto da donatore vivente, con tutta una serie di interventi che ci permettono di aumentare e di migliorare questo programma. Però noi addetti ai lavori non possiamo fare tutto da soli. Il programma trapianti a livello di una regione o di una nazione in realtà è un programma di tutti, che si basa sulla capacità di tutti quanti di donare. È una cosa che ci dobbiamo ricordare soprattutto nei momenti particolarmente importanti, particolarmente drammatici, però deve rimanere in noi la capacità di donare. Ricordo a tutti, fra l'altro, che grazie al Centro Nazionale Trapianti adesso c'è la possibilità, e di molti comuni, c'è la possibilità di esprimere in vita la propria volontà alla donazione degli organi, ed è una cosa che dovremmo fare tutti per migliorare questo programma, che di nuovo non è degli addetti ai lavori, non è dei pazienti, ma è di tutti quanti noi. Grazie, per oggi è tutto, vi invito come ogni giorno sulla pagina Facebook di Radio 24 di Obiettivo Salute. Oggi parliamo di una complicanza del diabete, la retinopatia diabetica. Vi aspetto, non mancate. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.